marciatori che puntano su Roma sta a Milano, a pochi chilometri dal confine con la Svizzera, perché deve vedere come va a finire. Poi puntano su di lui, puntano su quel movimento. Poi la Svizzera gli ritornerà nel 1945 come un ulteriore tentativo di fuga. Ma questo succede, cioè se avesse firmato lo stato d'assedio, forse ci sarebbero stati dei problemi nell'esercito. Sembrerebbe che nelle ricostruzioni storiche Vittorio Emanuele III fosse pressato dalle forze armate e che avesse paura, di avere un contraccolpo se avesse fatto un'operazione in cui l'esercito non era d'accordo, in buona sostanza, di fermare i cosiddetti marciatori. Poi probabilmente il movimento fascista, se quella era la scelta, ci sarebbe stata probabilmente un'altra storia di una forse altra ascesa, che avrebbe avuto altre strade, altri passaggi. Ma l'idea che tu dici, che racconti, che tanto quel governo sarebbe durato poco, ha un'analogia con gli anni 30 in Germania. Perché quando viene dato a Hitler il compito di formare il governo e i ministri del nazionalsocialisti sono in minoranza dentro il governo, i commentatori dell'epoca raccontano durerà poco, siamo finiti ad Auschwitz, a Treblinka col durerà poco. Quindi un insegnamento comunque che viene fuori è di non sottovalutare mai niente, neanche le operazioni grottesche che vengono fatte, perché a volte quelle grottesche che noi non capiamo sono un segnale che qualcuno raccoglie, che sta molto più in alto e che ritiene possa essere una carta. Io non credo che i neofascisti di oggi siano una carta. I Fratelli d'Italia sono una possibile soluzione per un restringimento dei circuiti decisionali. Questo sì. In questo paese, gli attacchi principali alla Costituzione non sono venuti da loro, eh? Gli attacchi alla Costituzione sono venuti da un'altra parte. Ci ricordiamo il referendum che è stato fatto. Ma ci ricordiamo chi è che ha sciolto le province, chi ha sciolto dei livelli di rappresentanza elettorale, chi è che adesso chi è che ha ridotto i parlamentari? E cioè, quando tu riduci la rappresentanza dei circuiti decisionali, puoi spianare la strada delle altre operazioni. Io non so se loro punteranno, perché per fortuna non hanno i 2/3 per fare da soli in Parlamento, però ecco. Ho visto le elezioni di Ignazio La Russa al Senato. C'è qualcuno che dovrebbe fare l'opposizione, che forse su certe cose invece ci sente. Da quella parte, la parte di Matteo Renzi, c'è una proposta che è sfuggita in campagna elettorale ai più. Lui dice: noi non siamo d'accordo con l'elezione diretta del Presidente della Repubblica, però del Presidente del Consiglio sì. Sai la differenza. Sai la differenza tra le due cose. Se tu eleggi direttamente il Presidente del Consiglio, tiri via la responsabilità del Presidente della Repubblica, e cioè metti a un livello puramente rappresentativo il Presidente della Repubblica e sposti invece le cose sulla Presidenza del Consiglio, che se eletta direttamente dai cittadini è esattamente la stessa cosa. E quindi la cosa da temere sono queste qua, secondo me. Poi l'area del neofascismo, quella come dire più aperta dal punto di vista della sua identità, ha un'idea di erosione della coesione sociale. Non ha l'idea della spallata, non ha l'idea come negli anni 70 di ordine nuovo, avanguardia. Non puntano al golpe, alla sovversione istituzionale, quelli non puntano a quella roba lì. Quella roba lì non c'è più, c'è questa cosa della Presidenza della Repubblica. E c'è l'erosione della coesione sociale, e cioè loro vogliono essere sul terreno del consenso per, come dire, erodere valori e consensi, che possono essere di tipo democratico o di sinistra o solidaristico. Ci sono campagne, di strategia della tensione xenofoba che vanno avanti da molto tempo, e le periferie di alcune città sono al centro di questa roba qua. Quella è l'erosione della coesione sociale, perché dentro a quelle campagne lì non è che semplicemente c'è una mobilitazione, passano dei concetti, passano dei disvalori, che io ho diritto e tu non hai diritto perché vieni da fuori. La solidarietà è solo con i miei, della mia etnia, e non c'è una visione d'insieme di una società che di fatto è già multiculturale, ma che non viene riconosciuta. E quindi c'è una precipitazione, verso come dire, un conflitto di tipo etnico, violento comunque sia, come c'è già in modo strisciante da tanta altra parte di questo paese. Questi sono secondo me i pericoli. Il non sottovalutare mai le cose, perché la storia ci insegna che poi quelli che vengono presi per dei buffoni invece sono una delle carte su cui altri vogliono giocare, proprio perché magari sono dei buffoni e sono manovrabili. Il movimento fascista è stato manovrabilissimo, il voto alle donne, l'influenza del biennio rosso, delle cose che venivano fuori da quella parte lì, poi sono cambiati dalla sera alla mattina, sono cambiati gli attori, sono cambiati i soldi, sono cambiati loro, eh. L'ultima cosa che allora mi hanno colpito della relazione del professor Ferrari, fondamentalmente due frasi. Cioè, due frasi. La prima dice che oggi c'è un antifascismo di conservazione, grosso modo, la sintetizzo così. E l'altra, una frase che dice, parlando di CGIL, dice la CGIL si sta muovendo nel tentativo di capire se riuscirà a svolgere un ruolo antifascista dentro i luoghi di lavoro. La riflessione che voglio fare è questa. Adesso avete parlato di quali sono i soggetti politici che in realtà hanno messo in atto tutta una serie di riforme che noi ci aspettavamo e temevamo fossero messi in atto da un'altra parte politica, cioè tutti i cambiamenti alla Costituzione, la riforma del titolo quinto, il pareggio in bilancio e prima ancora anche tutto lo smantellamento del mondo del lavoro, in realtà parte tutto all'interno dell'attuale Partito Democratico, con Treo, quindi tutta la frammentazione del mondo del lavoro, dei contratti precari e bla bla bla. In tutto questo anche il sindacato, un certo sindacato ha avuto un ruolo fondamentale, perché poi è quello che ha certificato nei posti di lavoro questo cambiamento, che non si è opposto, anzi che ha fatto da stampella a tutto questo, quindi addirittura avendo un ruolo attivo dentro le cooperative, dentro le società di lavoro interinale. E d'altronde lei poi verso la fine della relazione ha detto un'altra cosa importante, ha detto che molte delle... nel neofascismo, all'interno di molte organizzazioni neofasciste, c'è invece una presa di posizione che sembrerebbe più somigliare ad esempio alle mie posizioni. Anticlobalismo inteso come un'opposizione a un neoliberismo, opposizione a tutta una serie di sfruttamenti, di verticalizzazione dell'economia, eccetera, eccetera. Allora il paradosso, non so manco se è una domanda, però è un dovere, mi sono sentito di questa cosa. Oggi mi sembra di vivere dentro un paradosso abbastanza evidente in cui gli eredi dell'antifascismo, di questo antifascismo di conservazione, oggi sono quelli che in realtà hanno dato una forte spinta neoliberista a tutta la società e quindi hanno assunto un ruolo che storicamente è stato in qualche modo della destra, mentre da destra arrivano spinte contro questa società di fatto neoliberista, globalista, eccetera, eccetera. Allora un po' si spiega anche perché poi si arriva alle elezioni in questa condizione. Cioè, mi è venuto in mente quello quando diceva la risposta è dentro di te, però è sbagliata. Secondo me sono solo cose di facciata, però lui è più esperto di me. No, nel senso che sono cose che si dicono in campagna elettorale per acquisire, perché appunto siccome a sinistra non lo dice più nessuno, queste cose antiglobaliste, eccetera, allora le dicono gli altri, dicono a destra, ma poi una volta che governeranno non cambieranno minimamente niente. Però sono assolutamente concorde con te. Quello che penso solamente è che non c'è questa alternativa di politica economica da parte della destra, è puramente di facciata, a mio avviso, però tu sei più esperto di me, quindi lascio te la risposta. No, è una discussione aperta, vediamo un attimo. CGIL, prima cosa. Io non sono iscritto alla CGIL, non sono nemmeno assolutamente tenero rispetto alla CGIL. Mi hanno invitato a Roma a un seminario interno che non, un po' particolare, perché erano presenti i sindacati europei e soprattutto i sindacati sudamericani, la CUT brasiliana, cilena, argentina. C'erano anche i sindacati inglesi e irlandesi, con all'ordine del giorno fare una rete internazionale di sindacati progressisti e antifascisti, ponendosi un obiettivo comune, per quanto le differenze siano rilevanti nei diversi paesi, di come intervenire nei luoghi di lavoro per sottrarre l'influenza della destra. E questa cosa in Italia come problema importante, cioè cosa fare nei luoghi di lavoro perché gli operai votano a destra. Ci sono le indagini demoscopiche impietose dell'Ipsos su il voto alle europee del 2019: il 40% degli operai aveva votato Lega, qui mi pare che siamo sul 30-35% rispetto ai Fratelli d'Italia. C'è stato uno svuotamento di lì per passare di là, e quindi se oggi dicessimo la classe operaia deve dirigere tutti, scapperemmo in Svizzera, perché ci sarebbe un serissimo problema di democrazia in questo paese, perché il problema è, e se la CGIL se l'è posto, io sono stato, come dire, coinvolto in un dibattito e, come dire, ne ho preso atto in modo positivo, poi non so se lo faranno, però il dibattito lì è anche ci prepariamo a tempi duri dal punto di vista della tenuta del tessuto democratico. E quindi c'è qualche organizzazione, la principale in Italia di massa, con tutti i suoi difetti e le cose negative che ha fatto, che si sta ponendo il problema. Poi non so se sarà in grado di essere un attore importante nel futuro periodo. L'antiglobalismo della destra, che viene fuori da una precedente teorizzazione che era l'antimondialismo, perché loro usavano precedentemente questa espressione, e come l'antiglobalismo lo connotano con elementi di analisi che sono inaccettabili per noi, perché lì ci sono non semplicemente gli astratti poteri forti, ci sono i banchieri ebrei, ci sono i circoli sionisti, c'è la finanza in mano. E quindi c'è, come dire, un elemento di antisemitismo già dentro alla loro definizione di antiglobalismo e prima di antimondialismo. Loro ragionano in questo modo qua. La cosa non è perché se tu sei antiglobalista, come dire, respingi i poteri forti, le multinazionali, quelli che ne mettono le mani sul tuo paese, per una società progressista. Sei da un lato rispetto al contesto internazionale per rivalutare le identità nazionali, no? E quindi la loro idea è la nostra industria, che peraltro riecheggia vecchie cose del nazionalsocialismo, e cioè dove i capitalisti nazionali erano quelli buoni. E quindi tu hai questa idea qua, e cioè che io sono antiglobalista perché ho un'idea sovranista e nazionalista in un contesto europeo, ma il tuo modello di società non è quello. Intanto guardano a dei modelli che sono, lo ripeto, medievali, che non è incompatibile col capitalismo, perché una delle idee che là dentro, in realtà io la traduco così, è che tu hai delle gerarchie di funzionamento ante-rivoluzione francese che non è incompatibile con il capitalismo, anzi il capitalismo prospera di fronte a una società priva di diritti, che loro vogliono vedere in quel modo lì, dove il cemento della coesione è dato da alcune istituzioni che sono a partire da quelle religiose, no? E quindi loro guardano al tradizionalismo russo, sono amanti dei polacchi, perché quella roba lì è il modello di società, ma non è che significa che io supero il capitalismo non lo supero, ma soprattutto io peggioro la condizione di chi vive in quella società lì. Quindi quell'antiglobalismo ha questo significato per loro. Dopodiché ci sono delle punte alte e raffinate come De Benoit, che te le dicono bene, sono suggestive e affascinanti le cose che ti dice De Benoit, solo che la sua società, come lui la vede, è innanzitutto una società bianca. Perché lui, quando dice del differenzialismo, etnico, perché lui è partito col differenzialismo etnico, ti dice una cosa che è un riconoscimento, e dice: il mondo è fatto da tante differenze che sono positive, non sono negative. È una grande ricchezza il mondo fatto da tante differenze. Per preservare questa ricchezza ognuno torni a casa sua, e cioè ognuno sul suo territorio, sulla sua nazione, sul suo paese, sia lui il dominus, e quindi no alla società meticcia, in buona sostanza. E cioè questa dopodiché è chiaro che tu sviluppi da questo punto di vista un nazionalismo etnico, eccetera, lo puoi dire bene, ma la conclusione è quella lì. Ci sono i busti dentro la cosa CGL di Vittorio. Emanuele. Grazie. Ma è vero, le diversità sono belle, ricordava ora Saverio, purché ciascuno le faccia a casa propria, però poi sappiamo anche che, proprio perché è un movimento di crisi, il fascismo non è un movimento che può tenere il capitalismo italiano a casa propria. Quindi il fascismo è stato, come dire, Mussolini che dichiara ora l'Italia finalmente il suo impero, e quindi imprese coloniali e schiavizzazione, perché naturalmente quello era funzionale allo sviluppo del capitalismo italiano in quel momento, in quella crisi. Quindi si vive un'eterna contraddizione. Effettivamente noi abbiamo chiuso una campagna elettorale e la Meloni ha vinto e diventerà prima ministra, diventerà presidente del Consiglio, però in un mare di contraddizioni. Oggi facciamo questo dibattito fondamentalmente perché la destra ha vinto le elezioni, ma non ha vinto nelle piazze, non ancora. E non si può dimostrare il contrario, nel senso che effettivamente non c'è stato ancora uno scontro frontale con il movimento di opposizione sociale. Mentre invece, veniva ricordato anche in altri interventi questa sera stessa, il fascismo poté conquistare un settore, una porzione molto significativa del paese, dopo una sconfitta storica del movimento operaio, che all'epoca era il nucleo fondamentale dell'opposizione sociale nel paese. Una sconfitta frontale. Questa però noi ancora non l'abbiamo avuta, noi non abbiamo un movimento di forte radicalizzazione sociale in Italia, oramai dalla fine, diciamo, degli anni 60 e dalla metà degli anni 70. Non lo abbiamo più, una stagione durevole di lotte che coinvolgono moltissimi settori della società, che radicalizzano la società, la polarizzano, che fanno entrare nella scena, diciamo, della lotta nuove generazioni e che si ideologizzano. Questo noi ancora non l'abbiamo avuto, anche se non possiamo non vedere il fatto che le leve più giovani, che sono quelle che poi tra l'altro non vanno a votare, sono anche le più promettenti e sono intuitivamente anticapitaliste, sono intuitivamente antifasciste. Pensiamo alle generazioni che animano il movimento per la tutela dell'ambiente, contro la devastazione ambientale che questo sistema fa. Pensiamo alla mobilitazione per la difesa, veniva ricordato da Arianna, mi pare, della difesa dei diritti di genere, del diritto all'aborto, ma anche dei diritti delle diversità sessuali. Sono intuitivamente e sono fortemente antifasciste, questo è molto semplice da comprendere, e sono anche intuitivamente anticapitaliste. Perché? Perché l'esperienza del Covid, della pandemia, la crisi frontale, la società in cui viviamo dal punto di vista economico, erodono ogni giorno di più i margini di una tenuta sociale, delle possibilità, briciole dal tavolo non ne cadono più. Ora, questo è un aspetto che secondo me va considerato e lo voglio ribadire, proprio perché abbiamo la sensazione che in realtà la battaglia sia ancora tutta da giocare. E anzi, forse, considerato che negli ultimi 10 anni nessun governo è durato più di 2 anni, con l'eccezione credo del governo Renzi che ne è durato quasi 3, è implicito pensare che il governo Meloni sarà un'altra carta, in questo caso forzata, che la borghesia italiana darà alla governabilità, che è sempre più fragile. La carta Draghi, che doveva essere il governo dei migliori, è stata spesa. Cartamonti è stata spesa, il Partito Democratico è stato speso in tutti i governi negli ultimi 10 anni, credo tranne il primo governo Conte. E quindi chiaramente adesso, come dire, si gioca anche questa partita, e questo inevitabilmente avrà un riflesso anche sulla presa di coscienza di tanti strati, non soltanto quelli giovanili, perché si sa, la presa di coscienza, come dire, nella società lavora con lentezza e poi si muove a strappi, come spesso succede. La storia insegna, ci sentiamo di dire, ed era anche l'idea per la quale abbiamo voluto in parte anche organizzare questo dibattito. Insegna per tante ragioni. Negli interventi precedenti si è citato il 1921, è l'anno in cui nasce il Partito Comunista d'Italia, si scinde dal Partito Socialista, lo fa sulla base di una sconfitta, appunto la sconfitta del Biennio Rosso ed un pesante dibattito all'interno del Partito Socialista. Il Partito Comunista d'Italia nasce a Livorno nel gennaio del 1921 e ancora deve nascere e già rischia la vita, perché gli assalti alle camere del lavoro, alle sedi, ne ricordate Saverio, ricordate Eric, sono oramai pane comune. E questo sarà fatale a un partito così tenero, che doveva ancora farsi una base politica. Sarà fatale, e queste cose poi si pagano. Perché? Perché, veniva ricordato, anche il Partito Comunista d'Italia, nonostante le brillanti intuizioni di Gramsci, chiuso in carcere tra l'altro, perché poi anni dopo verrà chiuso in carcere, 7 anni dopo verrà chiuso in carcere e passerà gli ultimi 10 anni della sua vita chiuso e isolato, però saranno fatali. Pensiamo al movimento degli Arditi del Popolo, che è stato l'ultimo movimento di opposizione al regime dopo la sconfitta dello sciopero legalitario, un movimento che il movimento comunista non riuscì a intercettare, perché anche per posizioni dissettarie della direzione di Bordiga, che immaginava che l'opposizione militare al fascismo potesse essere organizzata soltanto in brigate di partito, e questo fu un errore. Perfino l'Internazionale Comunista condannò questo errore. Ma la storia insegna anche per un'altra ragione, per dirvi quanto è ricca alle volte, quanto dettagli teorici possono essere importanti anche nel nostro mondo a distanza di decenni, e ci sembrano cose lontane che si possono studiare così per piacere culturale, invece hanno un riflesso. Gramsci viene chiuso in carcere nel 28, un cervello che non doveva più pensare, ci morirà lì dentro 10 anni dopo. Eppure, nelle sue riflessioni, ovviamente poté scrivere come poté, non quello che voleva, perché era sottoposto a censura. I quaderni, i famosi quaderni dal carcere di Gramsci, vengono sottoposti a censura 3-4 volte al giorno. E quindi lui è costretto a inventarsi filosofo, sociologo, e a confondere il linguaggio, che è un problema, apro una parentesi, che ovviamente avrebbero fatto di Gramsci un po' quello che si sarebbe voluto negli anni successivi, poi anche nel dopoguerra. Però un aspetto importante della sua riflessione, un'intuizione fondamentale, beh, questa la vogliamo ricordare questa sera, perché potrebbe anche essere di esempio per noi. Gramsci a un certo punto nei quaderni dal carcere si dedica a una riflessione, e la riflessione è: cosa succederà all'opposizione di classe in Italia quando il regime cadrà? E sviluppò questa riflessione quando ancora non c'erano i sintomi potenziali di una caduta del regime. La sua riflessione andava in questa direzione: probabilmente un settore importante della società, probabilmente si adotterà delle parole d'ordine democratiche, parlamentari, tutti si sentiranno antifascisti quando il governo cadrà, quando il regime cadrà, tutti quanti, e ci sarà per forza, inevitabilmente, anche istintivamente, una forte ondata di parole d'ordine esclusivamente e limitatamente democratiche. Per Gramsci questo era un problema, perché era un dirigente comunista, perché era internazionalista, e quindi quello che lui si domandava era come avrebbe potuto il movimento comunista entrare in questo dibattito, sapendo che non sarebbe stato possibile, esclusivamente lottare contro il regime fascista alla sua caduta, fingendo o tralasciando le istituzioni democratiche che avevano teso la mano al fascismo, le istituzioni industriali che lo avevano finanziato. Come conciliare quella spinta di massa, la voglia di democrazia, con la necessità di portare fino in fondo una rivoluzione nel paese? E tutto questo lo deve scrivere, però, ovviamente, con un linguaggio estremamente difficile, per ragioni naturalmente di censura. La risposta che si dà lui, che prova a dare, che prova a stimolare, è questa. Cioè che si sarebbe dovuti impugnare le parole d'ordine democratiche fino alla fine e contemporaneamente però portarle avanti con parole d'ordine transitorie che attaccassero il cuore del sistema, di una società che sarebbe stata profondamente in crisi e spaccata. Quindi la storia insegna anche da questo punto di vista. Ecco, io voglio riallacciarmi per chiudere questa riflessione anche di dibattito a quanto diceva Saverio nel suo primo intervento alla fine, dove parlava di saldatura tra il movimento antifascista e le rivendicazioni sociali, e credo che effettivamente quello sia il cuore della questione e che sia mancato però nel movimento antifascista per molto tempo. Anzi, credo che il movimento antifascista in Italia sia proprio stato a digiuno di parole d'ordine di rivendicazioni sociali, anoressico da questo punto di vista, di parole d'ordine di rivendicazioni sociali, e che oggi non sono più rinviabili perché viviamo in una crisi frontale della democrazia, dell'economia, della società. Le nuove generazioni di cui si parla, molte delle quali sono anche generazioni di immigrati di seconda generazione, sono una speranza da questo punto di vista. Loro non hanno mai visto il boom economico. Loro sono nati e cresciuti in una società che era già profondamente in crisi a livello internazionale, a livello economico ed a livello politico. Quindi io credo che dobbiamo fare una fuga dall'antifascismo che è stato. E dobbiamo fare una fuga dall'antifascismo rituale, anche solo esclusivamente memorialistico ed esclusivamente istituzionale. D'altro canto, credo che in qualche modo anche la destra e gli storici liberali vorrebbero un antifascismo esclusivamente istituzionale, esclusivamente addomesticato. Ma, come diceva uno scrittore molto caro all'estrema destra, nei suoi racconti ritrovati, che è Tolkien, gioiscono delle evasioni soltanto i carcerieri. E onestamente questa cosa la dobbiamo rompere. Sono stato invitato due settimane fa a un dibattito a ZAM per parlare di radicamento sociale dopo queste elezioni, e mi sento di condividere che abbiamo ancora molta strada da fare. Lo dico anche ai compagni del Barahonda, c'è veramente tanta strada da fare, e uno degli obiettivi che dovremmo porci è quello anche di ricucirla l'unità di questo movimento antifascista, perché non è più possibile avere un settore del movimento antifascista combattivo, estremamente giovanile, però incapaci di dialogare con il resto magari della città, e avere un settore del movimento antifascista più riconoscibile, ovviamente, più che fa gli appuntamenti nelle scuole, che fa tutti gli aspetti commemorativi, che sviluppa tutti gli aspetti commemorativi del movimento antifascista. Ecco, io crediamo che a questo punto sia ormai divenuto necessario lavorare una saldatura, costruire una saldatura e costruire insieme delle parole d'ordine su questo. D'altro canto, in fondo, Fratelli d'Italia non è che un'organizzazione di rispetto e di sviluppo delle posizioni di Bonomi in Italia. Come avranno l'agenda Draghi in Europa, così svilupperanno l'agenda di Bonomi di Confindustria in Italia. Cominceranno con il reddito di cittadinanza, ma poi andranno avanti sulla rappresentatività sindacale nei luoghi di lavoro, e sarà una cosa che cercheranno di sfondare in tutti i modi, perché è proprio quello che sono dei Doberman e servono esclusivamente a quello. Dobbiamo trovare il modo di congiungere tutti i puntini. Si parlava della CGIL, però andrebbe saldata le mobilitazioni di sindacalismo di base, andrebbe costruita questa piattaforma con una chiara identità antifascista. È uno scandalo il saccheggio della Camera del Lavoro a Roma, che c'è stato l'anno scorso, la prima volta a 40 anni, però è anche uno scandalo che non sia stato convocato uno sciopero generale dopo quel saccheggio. Questo è vergognoso, questo va impugnato, ci si deve iscrivere al sindacato per impugnare queste cose. Quindi credo che questa sia una strada che dobbiamo portare avanti con molta consapevolezza, anche con molta serenità, tenendo bene a mente che questa battaglia ancora la dobbiamo cominciare. È Ciao a tutte e tutti, io sono Rocco di Potere al Popolo Milano. Volevo ringraziare i compagni innanzitutto per il dibattito, no? Credo sia fondamentale cominciare a confrontarci e sviluppare anche prospettive rispetto all'antifascismo. Lo si ricordava prima negli interventi che se l'antifascismo è qualcosa di liturgico o di memorialistico, diventa una chiesa nella quale possono entrare tutti. Possono entrare tutti e possono usare tutti. Noi l'abbiamo visto storicamente, no? L'antifascismo istituzionale, prima si accennava, è un tipo di antifascismo che serve per fare copertura a sinistra sostanzialmente, no? Io che cosa faccio? Esalto il partigiano di turno, metto l'immagine, il nome da qualche parte e poi ho mano libera rispetto all'attacco al mondo del lavoro, ai lavoratori, alle classi popolari, che la storia di questo paese ci dice essere poi quelle che sono determinanti per la lotta al fascismo. Perché se il fascismo è stato sconfitto in questo paese è perché la classe operaia, le fasce popolari in un certo senso si sono organizzate e hanno fatto un'operazione anche di risveglio della coscienza del paese, che ha permesso di far uscire l'Italia da un periodo di vergogna dovuto a quello che era tutto il periodo fascista, grazie alla lotta e appunto aver messo sul campo l'antifascismo. Però dobbiamo riportarlo all'oggi. Noi oggi abbiamo vincitori delle elezioni, con molta probabilità tra i soci di maggioranza del governo, i diretti eredi, no, di una storia post-fascista e quant'altro. E prima una delle domande che secondo me diventa cruciale era quella: perché i lavoratori votano a destra e non lo fanno certo da questa tornata elettorale, lo fanno da un po'. Noi l'abbiamo visto, se vediamo banalmente i dati delle ultime due elezioni, no? Il 2018 e l'ultimo, noi vediamo che nel 2018 c'era stato un grande voto alla Lega, soprattutto qui al nord, nelle zone industriali del nord, il Movimento 5 Stelle sul né di destra né di sinistra ma con alcune misure sociali aveva raccolto quella voglia di cambiamento, perché era evidente che sia il voto alla Lega in una certa misura, sia il voto al Movimento 5 Stelle rappresentavano magari anche in maniera maldestra, senza strumenti, perché quella era la condizione in cui la classe lavoratrice arrivava, si chiedeva un forte cambiamento, un qualcosa di diverso rispetto a quello che erano i partiti tradizionali. Se voi andate a vedere uno studio fatto per esempio dall'Istituto Cattaneo e fa vedere il flusso di voti, come si sono spostati, voi vedete che gran parte di quei voti sono transitati poi in quello che è oggi il risultato di Fratelli d'Italia. Questo ci dice che più che ideologico quel tipo di voto è la permanenza di quella voglia di cambiamento. Non a caso viene premiata la Meloni, noi lo sappiamo, gli addetti ai lavori, tra virgolette, lo sanno che la sua opposizione al governo Draghi era di fatto di facciata, cioè si stava fuori ma si votava praticamente tutto, quindi anzi si aiutava in questo modo, no? Conservando la parvenza della presenza di un'opposizione in Italia. Quindi sono transitati a forza a Fratelli d'Italia. Tutto questo passaggio però ci fa capire che se noi ci vogliamo opporre a tutta la stretta che poi sarà anche sui diritti civili, no? Perché quella sono la bandiera ideologica che magari deve in qualche misura tenere Fratelli d'Italia per marcare il punto, noi non ci possiamo che opporre e cercare di individuare i colpevoli di quello che è successo, del perché i lavoratori e le fasce popolari sono andate a votare quella roba là. Io dico che non hanno torto, perché in questo paese tutti gli attacchi al mondo, noi parliamo di precariato, chi fa parte della mia generazione ci ha sguazzato nel precariato, no? Il precariato viene da Treu, e Treu non era uno di destra, il Jobs Act non l'ha fatto uno di destra, l'articolo 18 non l'ha tolto uno di destra. Capite bene che quando succede che si ritrova in una condizione politica in cui i partiti che vengono detti per sinistra, vengono spacciati come qualcosa di sinistra, diventano i primi ad attaccare il mondo del lavoro, fanno cose che addirittura la destra non si immagina di fare, quello crea spazio alla destra stessa, perché c'è un rifiuto totale a qualsiasi ipotesi di sinistra. E mi dispiace dirlo, questa cosa qui vale tanto per i partiti quanto per i collegamenti diretti di questi partiti nel mondo del lavoro, che si chiama CGIL, perché la CGIL non è che non sa fare il proprio mestiere, lo sa fare molto bene, ma utilizza il rapporto che ancora c'ha in alcuni casi con i lavoratori per fare tutta una serie di operazioni, per accreditarsi rispetto a chi? Rispetto all'agenda Draghi, per accreditarsi rispetto al padronato, perché poi la CGIL è quella che fa gli accordi sui posti di lavoro, dove magari usa i soldi delle tasse per fare investimenti sui fondi speculativi. Stiamo parlando di questo. È quella che non ha alcun interesse affinché si crei una conflittualità ed un cambiamento radicale, ed è quella che blocca molte delle istanze sociali in questo paese, ed è per questo che diventa molto difficile, per questo le fasce popolari, i lavoratori vengono lasciati alla destra. Noi dobbiamo capire una cosa, che se ci vogliamo opporre a questo andazzo, perché poi lo sappiamo storicamente perché vengono usati i fascisti, noi siamo in un momento in cui c'è un cambiamento a livello internazionale totale, in cui c'è una competizione tra i vari poli spietata e in cui bisogna serrare i ranghi, e quindi per competere bisogna attaccare il mondo del lavoro e le fasce popolari. In questo caso questi neofascisti servono proprio a quello, consentiranno un ulteriore attacco al mondo del lavoro, consentiranno un ulteriore attacco agli spazi democratici. Perché guardate che questa storia è già iniziata, e non è un caso che gli attacchi principali, quelli più gravi, sono stati fatti proprio ai sindacati che sono conflittuali. Noi siamo a pochi chilometri da Piacenza. Che cosa è successo a Piacenza? La magistratura ha detto che chi fa uno sciopero sta facendo un'estorsione, e il mezzo dell'estorsione è il picchetto. A Italpizza è stato detto che bisogna risarcire il padrone, perché se tu ti metti a fare un picchetto non lo fai guadagnare. Che cosa è stato fatto con i facchini dell'SDA qualche settimana fa? Sono stati caricati perché chiedevano maggiori diritti. È proprio quello che succederà. Quindi noi dobbiamo essere capaci di sapere che innanzitutto non dobbiamo abboccare all'esca che ci tireranno, cioè quella di stare tutti quanti assieme, dimenticare. Io sono di origine campana, no? Ma sarà molto probabile che verrà detto: scordamoci lo passato, siamo tutti quanti, no? Siamo tutti quanti antifascisti. Io non sono antifascista come il PD, non sono antifascista come la Boldrini. E ha fatto bene quella compagna a cacciarla dalla piazza. Perché noi la prima cosa che dobbiamo fare, se vogliamo essere realmente antifascisti e vogliamo ottenere dei risultati, perché altrimenti è solo liturgia, è quella di doversi opporre a questo concetto che siamo tutti quanti uguali. Qua ci sta chi ha le responsabilità e chi invece al fascismo si è sempre opposto. E io, chi ha le responsabilità e ha creato questa situazione, al mio fianco non ce lo voglio. Perché? Perché viene rifiutato a pelle dalle fasce popolari e dai lavoratori. E quindi queste distinzioni vanno fatte, altrimenti non si è efficaci. Non è una questione di purezza, è una questione di efficacia. E quindi rendere tutti quanti sulla stessa barca non ci porterà da nessuna parte. E quindi questa è la riflessione che dobbiamo fare. Dobbiamo uscire dai circuiti di soli militanti, perché questo è il punto. Lo dicevo prima, ma secondo me è uno dei punti fondamentali. L'antifascismo è vincente quando diventa popolare, quando diventa patrimonio dei lavoratori e patrimonio delle fasce popolari. Oggi non lo è più. Noi abbiamo molto da recuperare, ma questo lo possiamo fare solo sapendo individuare chi è il responsabile e chi da questo punto di vista è stato nemico. Perché qua si tratta di nemici, perché chi attacca il mondo del lavoro e spiana la strada alle destre, diventa un nostro nemico. E quindi uno dei punti, prima si citavano anche i diritti civili. Noi dobbiamo recuperare una cosa, secondo me, sui diritti civili, che i diritti civili devono essere e sono per forza legati con i diritti sociali, altrimenti si sta parlando del nulla, e quello è il punto. Anzi, altrimenti si lascia quello spazio proprio per fare scordiamoci lo passato, stiamo tutti quanti assieme. Quindi ripartire da questa fusione tra diritti sociali e diritti civili e individuare i responsabili. Perché se noi la situazione si fa grave, noi siamo in guerra, non ci sono altre strade, noi siamo in guerra, siamo sotto economia di guerra, abbiamo visto che la restrizione degli spazi democratici in questo paese, prima dicevo dei sindacati, ma questo vale anche politicamente, abbiamo fatto delle elezioni e non si è capito, cioè la gente partiva per le vacanze, che c'era ancora che è caduto, è tornata e era già stato fatto tutto. Abbiamo astensionismo a morire, cioè ormai è solo certificazione dell'esistente. E dobbiamo opporci a questo, perché se non ci opponiamo a questo saremo schiacciati. Saremo schiacciati dal caro vita, saremo schiacciati dall'impossibilità di dire nulla sui posti di lavoro, in strada. E questo lo dobbiamo fare con una consapevolezza, compagni, che deve essere diversa. Dobbiamo fare uno scarto rispetto al passato. La storia ci ha dimostrato che si è rimessa in moto. Compagni, ci dobbiamo svegliare tutti quanti. Non dobbiamo avere più indugi, non dobbiamo avere più illusioni di collaborazioni con qualcuno che ha vagamente del rosso in qualche bandiera e quindi sembra di sinistra. Se è di sinistra, se lo si è nei fatti, non nelle intenzioni. Chiedo a tutte e a tutti se ci sono altri interventi, se no ci avviamo verso le conclusioni. Ma certo, ci mancherebbe. No, io proprio veramente sono una battuta. Ah no, prego, prego. Allora, ripropongo una domanda che arriva dall'esperienza. Qua dentro siamo tutti bravi a riconoscere nemici, amici, antifascismo, parlando con le persone che non sono militanti, anche facendole seguire un ragionamento nel concreto, spesso e volentieri ho trovato una resistenza al cambiamento delle proprie posizioni. E sento, lavoro in ambito scolastico, sento sia colleghe che docenti, ma anche ragazzi che magari vengono a fare la battuta viva il Duce, però poi quando gli dici che bisogna tutelare i diritti dei lavoratori ti dicono hai ragione. Allora, di fronte a questo tipo di ragionamento di competenze logiche che mancano, volevo chiedere a entrambi che differenza c'è tra l'avanzata del fascismo degli anni 20 e di adesso, se ci sono, e adesso invece se è possibile ricreare questa militanza. Oppure, io sono pessimista, dico secondo me la gente ci deve sbattere la faccia contro, perché mi sembra che a livello cognitivo non si riesca a trasmettere spesso e volentieri questo pericolo che c'è. Quindi secondo me finché magari le figlie di certe donne o di certi uomini non si troveranno a dover affrontare un parto obbligato, magari rischioso, finché un sacco di lavoratori non prendono, ma molti di più di quelli che vediamo adesso, che magari sono in condizioni, sono migranti, quindi magari ce ne freghiamo. Quindi non so se è passata la domanda. Secondo me, da questo punto di vista, si fa molta fatica a convincere persone, specialmente, di tutte le età, sia per formazione, perché poi vorrebbe dire, quello che noto è che c'è anche una certa resistenza, perché vuol dire rinunciare in parte al proprio tempo libero, quindi occuparsi, leggere un articolo, magari partecipare a un'assemblea come questa, oppure semplicemente rinunciare alle comodità o al relax che dopo magari una giornata di lavoro gestione della famiglia o di altre cose, e uno dice: ma chi me lo fa fare, tanto sto bene così. Che ricorda un po' i borghesi negli anni 20, che dicevano: ma sì, lasciamoli fare, tanto picchiano solo gli operai e i poveracci, no? Niente, questo è il mio dubbio e domanda. Chiedo a entrambi, sia dal punto di vista storico che dal punto di vista giornalistico, magari affrontando i temi del presente, che è il vero tema, secondo me, di adesso, più che riconoscere i sindacati più molli, quelli più tosti, o le parti politiche che sono più partecipi, che secondo me, per chi è addetto al settore, chi legge un articolo banalissimo, insomma, è abbastanza facile, tra virgolette. Grazie. Guarda, allora, per quanto riguarda il futuro, non lo so, io mi occupo del passato, quindi non so, vedremo, mi viene da dire solo vedremo, e poi magari in chiusura dico qualcosa su cosa forse bisognerebbe fare, ma concordo comunque con la maggior parte degli interventi che sono stati fatti, quindi devo dire sono molto contento di essere stato qua, di essermi confrontato con voi, perché mi avete anche aiutato anche a me a chiedermi le idee sul presente oltre che sul passato. Per quanto riguarda, diciamo, le similitudini con la storia, con i 100 anni fa, secondo me l'elemento più rilevante della differenza della situazione attuale rispetto a quella dei 100 anni fa è proprio quello della violenza, che è stato nominato più volte. Cioè, la marcia su Roma storica del 1922 arriva, come dire, a conclusione di una vera e propria guerra civile che è durata 2 anni e che ha fatto centinaia di morti nel nostro paese. Cioè, questa è la realtà, una guerra civile che i fascisti hanno vinto e che hanno perso 20 anni dopo, invece, alla fine della seconda guerra mondiale. Questo è il dato che decisamente differenzia quell'evento da quello che sta accadendo oggi. Perché quello che sta accadendo oggi, secondo me, e qua riprendo anche cose, suggestioni che sono già state fatte da altri, è che non è così vero che loro hanno vinto. Il problema è che gli altri hanno perso. E il problema forse è anche che noi abbiamo rinunciato a combattere. E il riferimento che facevi adesso agli impegni familiari, le cose, la quotidianità, secondo me è veramente, cioè, sembra una banalità, ma è il punto. Cioè, noi siamo diventati bravissimi a essere resilienti, a sopravvivere alle circostanze e alle situazioni, ma non siamo più capaci di resistere, di combattere, di lottare per ottenere qualcosa. E questo non è una critica a nessuno, e non ho nessuna, come dire, strategia da consigliare, proprio veramente non lo so. Però l'unica cosa che so è che continuare su questa via non ci porta da nessuna parte. Cioè, dobbiamo passare all'offensiva, dobbiamo passare al contrattacco, dobbiamo proporre un cambiamento, pretendere un cambiamento, appunto, non difendere l'antifascismo attaccando corone di fiori e monumenti, ma l'antifascismo deve essere una spinta a una richiesta di cambiamento, che ovviamente è un cambiamento sociale, un cambiamento da tanti punti di vista, delle politiche economiche, sull'ambiente, sui diritti civili, cioè sono tanti. Noi sappiamo benissimo quali sono tutte i punti su cui dobbiamo non soltanto difendere, appunto, la situazione attuale, non solo difendere la 194, anche noi dobbiamo pretendere un'evoluzione di quella legge, non nel senso che dice la Meloni, in un altro modo, ma dobbiamo, quella legge non è sufficiente. E questo è il punto, secondo me. Dobbiamo passare al contrattacco, dobbiamo passare all'offensiva. Ripeto, non so quale sia la strategia, non so quale sia il modo, ma è sicuramente questo, secondo me, il punto cruciale, cioè smettere di essere resilienti e tornare a essere resistenti. Prima delle conclusioni, solo una cosa sulla militanza. Noi guardiamo sempre a noi stessi e veniamo dalle nostre storie e ci interroghiamo, come ha fatto il compagno adesso. In questo paese ci sono anche tante altre militanze che non incrociano con quella politica, che esprimono una metà del paese, che è la vera forza della possibile tenuta e progresso di questo paese. C'è un mondo di associazioni cattoliche che ogni giorno milita sui valori della solidarietà. Non è una cosa proprio da poco. Ci sono mondi diversi che si battono magari in modo solo circoscritto sui diritti civili e non vede il resto della società. Ci sono quelli che si battono per alcuni riconoscimenti e non vedono quelli di 70 anni che cadono giù dai ponteggi. E non è che in questo paese siamo, come dire, messi semplicemente noi e c'è il resto. È un paese complesso che ha tante risorse, giusto per spendere una parola di ottimismo, e c'è chi pensa le stesse nostre cose, secondo me, anche proprio sul piano di ciò che si dovrebbe cambiare e migliorare e trasformare e superare, che viene da altre parti, da altre culture, da altri mondi, che noi non incrociamo mai. Ma il fatto di non vederlo, secondo me, è un difetto di analisi, anche politico, perché quel mondo lì non è rappresentato, non è vero che è rappresentato, politicamente non è rappresentato. Ah, adesso io non voglio entrare nelle diatribe del sindacato, non sono iscritto da nessuna parte, non sono iscritto a nessuna associazione, nessun sindacato, ma se tu non consideri le parti organizzate che ci sono adesso e pensi che siano, come dire, parti di cui tu puoi fare a meno, non cambi e non costruisci nessun movimento, non costruisci nessun movimento. L'avere ragione da soli non ci serve. Noi possiamo dare i voti a tutti gli altri e vanno dati i voti, ma l'essere semplicemente quelli che dicono c'ho ragione, però sono rimasto da solo, non credo che sia un'idea di prospettiva. Bisogna fare politica. La politica bisogna fare, bisogna fare la politica. E la politica è quello di mettere insieme, riannodare le cose, di trovare i terreni. E la politica è anche conflitto. Quando tu fai il conflitto, lo fai anche con quelli che vuoi spingere in una certa direzione. E credo che questa sia la cosa che si debba fare. La CGIL non ha più nessuna sponda politica, Se voi avete guardato cos'è successo recentemente nella manifestazione che ha fatto il 9 di ottobre, quello che ha più colpito di presenze non era Letta, erano i 5 Stelle. Cioè c'è chi cerca addirittura una sponda politica che non ha più. Una volta si parlava della CGIL come la cinghia di trasmissione del Partito Comunista. Adesso non c'è più sostanzialmente nessuna forza di sinistra significativa da poter fare cinghie di trasmissioni con qualsiasi sindacato, e quindi il problema che noi abbiamo non è solo il nostro problema di non avere sponde politiche, c'è una parte che io considero che sia una parte, addirittura la metà di questo paese, che non ha sponde di rappresentanza, che va dal mondo cattolico all'associazionismo anche laico fino addirittura a una gran parte di chi milita all'interno dei sindacati. Il problema è che non è che non ci sono le forze, è che non ci sono i soggetti in questo momento politici in grado di fare quel lavoro di costruzione. Noi che cosa possiamo fare? Siccome io non penso di dover lavorare per costruire un nuovo partito, penso che si possa lavorare sul terreno invece della costruzione di sensibilità, di movimenti, di conflitto. Quello è, come dire, il retroterra e la premessa per uno sbocco politico. Noi, penso, possiamo fare questo. Grazie a Saverio, grazie a Eric, grazie chiaramente a tutte le compagne e compagni che sono intervenuti. In particolar modo grazie a Saverio per questa ultima iniezione di fiducia, perché solitamente, almeno personalmente, quando sento Saverio mi chiama. Ma è giusto, cioè nel senso che voglio dire, la tua conoscenza, no? Quando ci racconti delle varie connessioni presenti e passate della galassia del neofascismo, mi mettono addosso un senso di disperazione quasi. In realtà, appunto, come dire, noi ci troviamo sicuramente davanti a un momento di crisi molto profonda rispetto anche a quelli che siamo soliti considerare le organizzazioni della classe operaia. E non è detto che momenti di crisi in realtà non nascondano nuove possibilità e ricerca di nuovi sentieri per ricominciare a costruire un conflitto che c'è, perché c'è, e che non riusciamo a metterlo insieme. Ora, la La situazione che stiamo vivendo col governo Meloni non è evidentemente una situazione inedita, questa cosa è già uscita, non è inedita né dal punto di vista storico, come dire, appunto Saverio ci raccontava che fino al 1960, a luglio del 1960, molte cose che noi non ci immaginiamo oggi e che consideriamo impensabili erano in realtà ordine del giorno. Eppure la resistenza aveva già vinto. Non è inedita neanche considerando la storia degli ultimi, diciamo, 30-40 anni, perché io credo che sia figlia, come dire, che i prodromi della situazione che stiamo vivendo adesso siano già nella marcia dei 40.000 del 1980, cioè le prime grandi sconfitte operaie che poi hanno portato e l'incapacità di rispondere come classe. Questo è un governo che non possiamo oggi definire fascista a tutto tondo, ma un fascista che è un governo che potrebbe, come dire, contribuire a chiudere il cerchio rispetto a certe cose. Non è un governo fascista a tutto tondo perché in questo momento alla borghesia non serve, o non serve completamente. Dopo il biennio rosso alla borghesia serviva e come un governo che, come dire, un governo forte che